Ultima lezione il 16 giugno, vai. E no, se no non rimane. No, è che il ragionamento che ho fatto io, a un certo punto sono apre gli occhi e inizi a vedere il mondo sotto questo punto di vista, appunto staccandosi dal punto di vista universalista e tutto il resto, e quindi ragionare su quello su cui ci ha fatto ragionare lei, ti prende un po' il pessimismo, perché ti senti un po' schiavo, vittima di un sistema che ti incatena talmente tanto che tu per stare a gioco devi anche mettere in ballo la tua... Cioè, come dice anche Daniels, tu devi stare comunque al gioco, e quindi nonostante tu pensi che sia tutto relativo e tutto il resto, per avere un rapporto con gli altri devi comunque scendere a compromessi, insomma. No, io non l'ho letta in Daniels queste cose. Nonostante ad esempio Foucault è molto positivo, nel senso che lui dice che l'uomo che cambia il mondo, cioè non c'è l'essenza, così e non sei tempo. Oh, il mondo che cambia l'uomo, che è la stessa cosa. Però mi prende a volte un po' lo sconforto, personalmente, poi è un discorso che mi sono fatta io. Siccome sono una che da quando sono ragazzina la penso in modo molto diverso, e mi sono, cioè, durante questo corso mi sono resa conto che tanti dei miei pensieri, che magari erano grezzi, astratti, cioè, sono molto... rientrano molto in questo discorso, perché sono vegetariana, sono ragazzina, un po' femminista, stile Donna Haraway, questo genere di cose. Però faccio veramente fatica a integrarmi nella società, e tante volte mi ha preso lo sconforto nel corso della mia vita, specialmente da ragazzina, quando Allora ti ha preso prima, non ora, non col corso. ok. No, adesso crescendo ho fatto anche tanti anni di psicanalisi e tutto il resto, però c'è sempre questo senso di, almeno a me prende un po' lo sconforto tante volte, da queste certe cose. Ora, come fa a affrontare positivamente, non so. Anche l'altra volta ci spiegava la disciplina, quindi il fatto che siamo costretti ad andare a scuola, cioè il fatto che siamo governati con certi strumenti di cui noi non ci rendiamo conto, però siamo soggetti a questa cosa, non possiamo fare niente alla fine. Se Perché siamo comunque se io soggetti. faccio dei figli sono costretta a mandarli a scuola. Certo. Cioè sono costretta, se non li mando a scuola finisce che magari questi vengono emarginati e tutto il resto. È difficile affrontare, cioè come fa uno a... Allora, potremmo fare il corso nel prossimo anno, potremmo farlo, non direte più, ma insomma. Potrei farlo sulla disobbedienza civile e su Thoreau. Per sapere chi era Thoreau? Henri Thoreau, 1800 e qualcosa, primi anni, 1870 e 8. Autore di alcuni libri importanti, i due più importanti dei quali sono Walden o La vita nei boschi e La disobbedienza civile. Thoreau è uno dei personaggi che, prima ancora di Gandhi, ben prima di Gandhi, ha posto le basi per il metodo dell'opposizione, come dire, non violenta. Non violenta non vuol dire educata, eh? Vuol dire radicale, ma anche radicalmente opposta a questa cosa. Il primo titolo che vi ho detto, Walden, è il resoconto di un periodo di 2 anni o 3 anni, non mi ricordo, durante i quali Henri Thoreau, ha scritto Thoreau, è un nome di origine francese, quindi più o meno. Non so bene come lo pronunciano gli americani. Henri Thoreau. Insomma, Thoreau, avendo deciso che non voleva più pagare le tasse alla città di Boston, che era la città nella quale, diciamo, viveva, fece quello che alcuni teorici dell'autonomia contemporanei hanno chiamato una operazione di esodo. Cioè ha preso e dice va bene, ne avete rotti i coglioni. Siete, voi siete lo Stato, voi siete la società, siete organizzati in modo volete tirarmi dentro, va bene, io non voglio pagare tasse perché sono in radicale disaccordo con tutto quello che voi fate, con quella, anche se siete la maggioranza, non me ne frega niente, a me, io entro, sono in disaccordo, quindi piglio e me ne vado. E per 2 anni ha vissuto nei boschi intorno a Boston, costruendosi una casetta di legno, vivendo di caccia, di pesca e di raccolta e di non credo neanche che coltivasse, forse coltivava qualcosa in un orticello, no? Vabbè, voi dite, certo era da solo. Sì, era come dire da solo, però poi da quello che ha scritto in realtà molte di queste cose. Quando nei primissimi anni 60, negli Stati Uniti, finita la primi anni 60 del Novecento, non dell'Ottocento, finita la Seconda Guerra Mondiale e rimesso in moto tutto il meccanismo economico, e anche tutta la ruota dell'immaginario in qualche modo, insomma, una frazione significativa della, non la maggioranza, certo, ma una frazione significativa, cioè gruppi consistenti, visibili, insomma, di giovani, cioè di persone che avevano tra i 16 e i 20 anni, 22, in quegli anni lì, nei primi anni 60, più o meno anch'io avevo quell'età lì in quegli anni, insomma. Negli Stati Uniti fecero anche loro una specie di esodo, una specie di... proclamarono senza fare tanti, sì, facendo anche, scrivendo anche delle cose, ma molti senza scrivere nulla, senza neanche rifletterci così, perché cominciarono a sperimentare degli stili di vita differenti, diversi, radicalmente diversi da quelli. Cominciarono a far crescere i capelli, a non solo non portare la giacca, la cravatta, ma insomma a vestirsi in maniera totalmente diversa, anche con vestiti insomma stracciati, anche perché probabilmente non, come dire, non volendo lavorare, quindi non disponendo di reddito come i loro coetanei, probabilmente era una scelta obbligata, cioè vestirsi di cose riciclate o di cose vecchie, eccetera, eccetera. E insomma crearono delle isole in molte, diciamo, città e in genere in più che altro in zone di campagna degli Stati Uniti, facendo la scelta che aveva fatto Thoreau da solo il secolo prima, facendola in gruppo, dei gruppi di persone che e sulla spinta di questa fu non proprio la nascita, ma insomma la rinascita di una cultura cosiddetta underground, cioè sotterranea, che non aspirava ad essere, come dire, visibile, che era portatrice di una alternativa radicale al sistema, diciamo, al sistema di valori, al sistema di vita, sia a livello, diciamo, cosciente che sia a livello della teoria che della prassi. Inventandosi dei modi ovviamente marginali, ma tutto sommato in molti casi efficaci, di procurarsi il reddito, per esempio praticando una specie di di piccolo artigianato, di cose. Tutto ciò che diciamo, più o meno conoscete, in realtà voi avete visto nella vostra esperienza, probabilmente avete conosciuto la replica della replica della replica della replica di queste cose qua, insomma, perché diciamo che l'ultima vera ondata di controcultura nell'Occidente c'è stata ai tempi del punk, cioè nella seconda metà degli anni 70. Però non è che non si può fare o che non si può. L'esperienza non è così semplice come la dice, come la racconta la mitologia del movimento di resistenza indiano contro gli inglesi, quello guidato da Gandhi negli anni 30, prima in Sudafrica e poi prima fra gli indiani del Sudafrica e poi fra gli indiani dell'India, perché era molto più complesso e molto più insomma, complicato. Però in fondo anche la resistenza diciamo gandhiana, cioè del National Congress all'imperialismo inglese in India fu una cosa di questo tipo, cioè togliersi, non fare delle cose, fare disobbedienza civile, cioè rifiutarsi di fare delle cose che sarebbero state obbligatorie per legge, e sfruttando la dinamica messa in gioco, diciamo suscitata da questa situazione conflittuale, aumentare la consapevolezza, insomma, perché tutto il gioco dei movimenti diciamo di resistenza alla cultura e alla politica ufficiali sta tutto in questo, cioè sta esattamente in quello che successe a Thoreau, moltiplicato per il numero di persone, perché anche Thoreau quando cominciò il suo esodo non aveva diciamo le idee chiarissime, ancora non aveva scritto Walden. Scrisse Walden dopo aver passato 2 anni a Walden in questa baracca, e quindi avendo riflettuto, ma era la situazione in cui lui si era messo, la nuova situazione esistenziale in cui si era messo, che lo aveva messo in condizione di fare questa cosa. Ora, nel corso degli anni 60 e degli anni 70, nell'Occidente, quello che si produsse fu all'interno di questi movimenti fu una diciamo fu il sorgere di due poli diversi, di due metodi e di due punti di vista diciamo differenti. Tutti quegli strati, giovanili di quegli anni, quelli che diciamo, avevano fatto quella scelta e sono quelli che, ripeto, anche se non erano la maggioranza di quella classe di età, è ovvio che non eravamo la maggioranza, noi che abbiamo fatto il 68 non eravamo la con maggioranza dei giovani, è ovvio. Però essendo stati quelli che ci siamo mossi con più diciamo, decisione e siamo quelli che abbiamo determinato l'immaginario di quel periodo. Questo fu come dire, un fenomeno mondiale, però rapidamente ci catalizzammo su due opzioni diverse, su due opzioni differenti che rapidamente si trovarono contrapposte e, come dire, mutuamente esclusive. Chi stava da una parte non stava dall'altra. Da un lato ci furono quelli che, diciamo, furono i rappresentanti delle controculture, insomma, quelli che poi si chiamarono gli hippies, insomma, e di cui i punk sono in qualche maniera, insomma, gli eredi più vicini, perché avevano, come dire, un atteggiamento analogo. Per queste persone, in Italia più o meno raccolte intorno alla rivista Canudo in quegli anni lì, per queste persone la cosa, come dire, principale era fare il gesto, costruire, diciamo, applicare subito dall'oggi modalità di vita, costruirsi una esperienza che fosse differente, alternativa, diversa, contrapposta, ma non contrapposta per il gusto di essere contrapposta, diciamo diversa, diciamo, il punto di vista dell'esodo, diciamo. Me ne vado, faccio i cazzi miei, vivo come pare a me, tengo i capelli lunghi, non voglio lavorare, costruisco collanine, vado in giro a venderle e campo di questa cosa, o rubacchio in giro, ognuno sceglieva il modo, però la cosa fondamentale era voglio praticare una alternativa oggi, subito. E uno dice, ma lo vuoi fare per i casi tuoi? In alcuni casi c'era anche quell'atteggiamento, cioè non me ne frega niente degli altri e io voglio vivere così. Ma nella parte più, insomma, consapevole di quest'ala c'era l'idea che questo modo di fare sarebbe stato, come dire, avrebbe cambiato le condizioni, avrebbe seminato qualcosa, sarebbe servito per fornire ad altri un modo, come dire, loro sì, la parte più consapevole dei movimenti controculturali degli anni insomma, 60 si concepiva come una specie di catalizzatore sociale. Soltanto se faccio delle cose diverse, significativamente diverse, visibilmente diverse dagli altri, avrò la forza di attirare, diciamo, qualcuno. Era una concezione ovviamente rivoluzionaria, era un tentativo di fare una rivoluzione costruendola nei comportamenti quotidiani dal basso e poi su questa base costruire tutte le altre cose che sarebbe stato necessario costruire successivamente, al limite, in alcuni componenti di queste, sino a una posizione politica. Tanto è vero che Abby Hoffman e Jerry Rubin, forse Rubin no, Abby Hoffman comunque ad un certo punto, nel 63 o 64, non mi ricordo in che anno, decisero addirittura di costruire una cosa chiamata partito, Youth International Party, YIP, diciamo gli hippie, vuol dire solo quelli dello Youth. Ovviamente non era un partito come il Partito Democratico, come il Partito Repubblicano americano, come ovvio, e neppure come il Partito Comunista, neppure come il Partito Socialista, che allora c'erano, no, erano già stati fatti fuori dal macartismo, ma c'erano stati per tutta la prima metà del Novecento negli Stati Uniti. Era un, virgolette, partito di tipo diverso, di tipo insomma giocoso, era una specie di associazione, però si chiamava partito perché c'era comunque l'idea che anche quella dimensione si sarebbe potuto, diciamo, contaminare prima o poi con questa, diciamo, teoria, come il sasso dello stagno, insomma, cioè, butti il sasso nello stagno e poi a poco le onde si allargano, eccetera, eccetera. Questa, diciamo, fu l'ala, come dire, chiamiamola underground o contro insomma, culturale. Un'altra ala, quella che ebbe, diciamo, come dire, nei media ebbero poi risonanza tutte e due, insomma, ma l'altra ala, quella che in America si diciamo, coagulò negli anni 60 intorno alla SDS, Students for a Democratic Society, che nacque come organizzazione studentesca ma presto diventò un'organizzazione politica in, insomma, diciamo di tipo più insomma, generale, e che in Europa si coagulò intorno ai gruppetti dell'estrema sinistra, soprattutto in Italia, in Francia, in Germania, c'erano ovunque, insomma. L'Italia fu il paese in cui sopravvissero più a lungo, in parte anche la Francia, perché c'erano già prima, insomma. Quest'altra ala contrapponeva a questo discorso sulla controcultura, cioè sul puntare su una diciamo, esperienza diversa fino al momento, diceva, no, dice, anche noi vogliamo fare la rivoluzione, tutti e due erano in qualche modo, però diceva l'ala che potremmo chiamare tra virgolette politica, non perché l'altra non lo fosse, ma perché aveva un'altra concezione dei tempi e dei diciamo, strumenti. L'ala che provvisoriamente chiamiamo politica tra 10.000 virgolette, diceva è impossibile, cioè diceva a quelli che la chiamano la cultura, è come dire, impossibile fare come fate voi, perché la pressione della società intorno a voi, di quella tradizionale, è tale che rapidamente vi isolerà, vi chiuderà dentro un ghetto, dentro una piccola enclave, e voi non potrete fare tutto quello che, quindi come dire, non potrete partire dai vostri comportamenti per cambiare le condizioni politiche ed economiche generali. È il contrario che bisogna fare, dicevano, devono essere, e qui le teorie erano diversissime, i marxisti dicevano la classe operaia. Molti negli Stati Uniti e in gran parte i gruppi dell'estrema sinistra europea erano quasi tutti marxisti. Una parte importante dell'SDS americana non era marxista e quindi non credeva che la classe operaia in quanto tale potesse avere un ruolo rivoluzionario ed era convinta invece che nelle nuove condizioni economiche gli studenti in quanto tali fossero una virgolette classe rivoluzionaria. Ma a prescindere da come la pensassero, in tutti e due i casi, in tutti i casi possibili, insomma, diciamo, l'ala virgolette politica puntava sulla crescita di coscienza di una classe rivoluzionaria, qualunque fosse quella operaia, fosse il nuovo, fosse la nuova classe studentesca, se c'era, eccetera, eccetera, la quale, accettando temporaneamente di vivere e di sopravvivere alle normali condizioni della vita, diciamo, borghese, capitalistica, eccetera, però costruiva diciamo delle come dire, esperienze di opposizione sociale e politica tese a cambiare, e qui diciamo la terminologia e il concetto marxista erano molto forti anche in chi marxista non era, a cambiare la struttura prima della sovrastruttura. Cioè il ragionamento di questa diciamo, componente, chiamiamola politica, dei movimenti di opposizione era: bisogna prima fare una rivoluzione a livello economico e sociale. Rivoluzione non voleva dire per forza violenta, con la violenza e con mezzi pacifici, ma comunque sia, bisogna prima cambiare la struttura economica, cambiare la struttura sociale di un certo paese e poi i comportamenti cambieranno più o meno di conseguenza. In questa visione c'era, adesso questo vi dico come penso io, certo, c'era una forzatura di cose comunque che Marx aveva sicuramente detto e scritto, ma che sicuramente avevano detto e scritto i marxisti, sulla differenza radicale che c'è fra struttura e sovrastruttura, sulla possibilità di distinguere tra un livello livello che Marx chiamava dei rapporti di produzione, cioè del modo di produzione, e diciamo tutte le costruzioni di tipo immaginario di rappresentazione e di autorappresentazione che i soggetti sociali si fanno su, diciamo, se stessi, quindi dal livello dei comportamenti pratici della vita quotidiana, tutto questo era considerato una sovrastruttura. La politica diceva non si può cambiare la sovrastruttura prima della struttura, non si possono cambiare insieme struttura e struttura, bisogna cambiare prima la struttura, quindi bisogna prima fare una rivoluzione a livello sociale, economico, eccetera, e poi cambierà la diciamo, sovrastruttura. Il punto di vista delle controculture dell'underground era viceversa un punto di vista, anche lì ce n'erano tanti, non ce n'era solo uno, ma in qualche maniera si può dire che il punto di vista comune a tutte le controculture era che la distinzione marxiana e marxista tra struttura e sovrastruttura andava abolita, andava come dire, superata, e che già nei fatti, secondo loro, la si stava, come dire, superando. Io non ho difficoltà a dirvi, so che ero crocifisso per questa cosa che dico, sono già stato crocifisso in altri momenti, ma insomma posso essere di nuovo. La mia idea è che il distacco, la polemica, la contrapposizione, la differenziazione, la battaglia, le lotte tra queste due aree, tra questi due punti di vista fondamentali dei movimenti di opposizione degli anni 60 e 70, sono una delle cause della loro sconfitta. Non la causa, non certamente l'unica, però una delle cause della sconfitta di quei movimenti è stata questa, è stata la divisione tra l'ala politica e l'ala culturale, tra il punto di vista politico e il punto di vista culturale. E vi dico anche che cosa, secondo me, sarebbe stato utile o interessante mantenere dei due punti di vista. Parlo per me, sto facendo una ricostruzione del tutto personale. Perché, a me pare che della elaborazione dell'esperienza della controcultura andasse assunto e salvato, perché si è rivelato molto profetico, il punto di vista che non ci deve essere differenza tra struttura e sovrastruttura. Cioè la differenza tra struttura e sovrastruttura era un retaggio, era probabilmente poco utile già ai tempi di Marx, ma comunque, se va bene, era una sopravvivenza di modalità ottocentesche, forse anche nell'Ottocento sarebbe stato utile, diciamo, liberarsene, ma comunque nel Novecento bisognava non bisognava più farne conto, perché come dire, quella che alcuni pensatori francesi, per esempio Lefebvre, già negli anni 50 in Francia chiamavano la critica della vita quotidiana, aveva un significato politico uguale, altrettanto se non più forte, se non altrettanto importante di quello della critica cosiddetta economica, o, diciamo, eccetera. Dell'impostazione invece, diciamo, marxiana o comunque quella che ho indicato con il termine, come dire, politica, andavano invece, sarebbe stato utile molto, molto probabilmente salvare come dire, l'impostazione che voglio dire, se, che con un po' di coraggio potremmo definire gradualista o riformista in qualche modo. E cioè l'idea che fosse possibile fare qualche cosa anche senza una separazione radicale, diciamo, anche senza forme radicali di esodo. Quindi anche mantenendo una, come dire, presenza, e quindi per certi versi anche degli ovvi compromessi con una vita, come dire, quotidiana segnata dai ritmi della diciamo, ideologia e dell'immaginario dominanti, che fosse possibile introdurre dentro a questa cosa alcuni, diciamo, elementi per poterla scardinare, ma senza pretendere, come dire, l'assoluta estraneità e l'assoluta, diciamo, come dire, diciamo, diversificazione, quindi la radicalità dell'esodo, detto in termini moderni, detto in termini contemporanei, che, come dire, praticavano quelli della controcultura. Se si fosse riusciti in qualche modo a conciliare in qualche maniera queste due, come dire, posizioni, il movimento non avrebbe riconosciuto, intanto avrebbe avuto una forza e una capacità tattica sia negli Stati Uniti che in Europa maggiore di quella che ebbe. Secondariamente non si sarebbe verificata la cosa più grave che si verificò, e qui ancora una volta, sia negli Stati Uniti che in Europa, e che fu l'emergere all'interno dell'area politica di frange ridottissime sul piano numerico e non così significative sul piano del radicamento sociale, anche se un po' di radicamento sociale, soprattutto in Europa, soprattutto in certi paesi, soprattutto in Italia, ce l'avevano. Posizioni che, estremizzando l'impostazione politicista, l'impostazione, diciamo, strutturalista, dicevano, bene, in realtà l'unico strumento possibile per fare una vera rivoluzione, per cambiare le cose, per sovvertire le cose dal basso, diciamo davvero, è quella di lavorare su una contrapposizione a tutti i livelli, ivi compreso quello militare, con le strutture dello Stato, e quindi bisogna che i movimenti rivoluzionari, per poter fare davvero la rivoluzione, devono passare attraverso una fase di lotta armata. Le posizioni che vennero chiamate, io credo, indebitamente terroriste, in realtà, diciamo, il terrorismo è un fenomeno più ampio, diverso, c'è una storia, il terrorismo nasce in Russia nella seconda metà dell'Ottocento, dal movimento del cabalista russo, insomma, c'è un'altra storia, però, insomma, è stato chiamato così, diciamo, giornalisticamente. La posizione armata si sviluppò per la prima volta negli Stati Uniti, con un dibattito tra il 67 e il 68 all'interno della SDS, che spaccò in due verticalmente la SDS, e dall'ala, diciamo, l'ala armata prese il nome di Weathermen, uomini del meteo, Weathermen, e con una serie di azioni assolutamente, diciamo, senza alcun, diciamo, rilievo, che però furono quelle che i Weathermen vennero rapidissimamente individuati, infiltrati, e già nel 69-70 erano già belli che morti, finiti, eccetera. Ma il movimento americano, cioè la SDS, negli USA ci fu poi l'altra, come variabile, perché l'altro grosso pezzo del movimento degli anni, diciamo, 60, in USA, oltre agli studenti, è quello dei neri, e quello delle donne, certo. Queste sono le tre grandi, diciamo, componenti. Le donne non vennero toccate se non marginalmente da questa cosa, i neri vennero toccati, diciamo, il movimento dei neri venne, diciamo, toccato anch'esso da questa, come dire, divaricazione e dall'ala, però in maniera diversa da quella, come dire, studentesca. Diciamo, i sostenitori di una componente armata della lotta fra, diciamo, i neri, che furono il Black Panther Party e il Black Power fondato da Carmichael, da Andrew Cleaver, eccetera, eccetera, diciamo, aveva l'autodifesa e quindi, diciamo, l'armamento dei neri del ghetto come uno dei punti fondamentali del loro lavoro, ma c'era un radicamento sociale che era diversissimo da quello che diciamo, non avevano gli studenti degli Weatherman bianchi, che erano poi bianchi, insomma, il territorio americano è praticamente quasi tutto bianco. Il Black Panther Party, il Black Power, venne sconfitto per una serie di altri motivi di debolezza interna, eccetera, eccetera, ma non fu la dimensione armata che Diana Mazzati, sì, ma il Black Panther Party crollò perché era un partito, perché aveva una come dire, corruzione interna, diciamo, terribile, perché uno dei modi di gestione maschilista fascista, nonostante la loro, che sono quelli che ne hanno portati alla fine, cioè Cleaver e Carmichael no, perché è passato in galera, e neanche il povero Jackson che ha scritto uno dei libri più belli di quella cosa che si chiama I fratelli di Soledad. Certo che ci fu una grandissima, diciamo, repressione, ma sarebbe come dire che l'IWW diciamo, l'aveva fatto fuori la Pinkerton 50 anni prima, che era vero in parte, cioè erano condizioni sociali diverse, per cui poi sono stati sconfitti socialmente sia il sindacalismo rivoluzionario americano che il Black Panther Party, hanno anche conosciuto una repressione militare fortissima da parte dello Stato, questo è ovvio, però c'erano anche gli elementi di, diciamo, debolezza loro. E però, nonostante questi elementi di, diciamo, debolezza, le esperienze di auto, diciamo, gestione nei ghetti neri a Los Angeles, diciamo, Chicago, in parte Manhattan, soprattutto Los Angeles, insomma, Chicago, furono forti e furono diciamo, significative, perché in quegli anni lì, insomma, in alcuni momenti gli abitanti del ghetto costruirono, i neri dei ghetti costruirono delle specie di piccole comuni, insomma, simili a quella parigina, insomma, prima del 1971. Analoghe, insomma, cose durarono poco, però, insomma, diciamo, c'erano. In Europa, è inutile che vi faccia, diciamo, la storia, perché la Germania forse è il paese più ancora dell'Italia in cui, diciamo, il cosiddetto terrorismo, insomma, diciamo, la scelta della lotta armata nasce prima e rivela rapidissimamente tutti i suoi, diciamo, limiti. La Rotterdam Fraktion, la frazione armata rossa, cioè il gruppo di Andreas Bader e di Ulrike Meinhof in, diciamo, Germania, si costituisce molto qualche anno prima, dal 68-69, credo, cioè, erano già, insomma, costituiti. Vabbè, negli Stati Uniti... Nel 64 erano in galera. Sì, però c'erano già nel 60, nel 68, credo che si sono già costituiti. La storia del movimento studentesco tedesco è un po' più complicata. I tedeschi erano molto più avanti di noi da un certo punto di vista. Noi nel 68 studiavamo, diciamo, Rudi Dutschke, che era il leader degli studenti tedeschi, ed era un movimento che già dal 66-67 aveva cominciato a, per esempio, studiare le questioni dell'internazionalismo, cioè dei rapporti internazionali, in modo più maturo di noi, perché loro, per esempio, avevano un sacco di forza lavoro, per esempio i turchi e iraniani, la Germania era già piena di lavoratori emigrati turchi iraniani, e diciamo, gli studenti tedeschi. Come che si chiama? Rudi Dutschke. Ucciso, sparato nel 68. Ed è rimasto paralizzato, quindi... E nel 68 dove nasce la RAF? Quando sparano a... L'impatto... Rudy Tuczke ha detto Rudy più grosso. Ma il libro, gli scritti di Rudy Tuczke già nel 67, cioè Tuczke aveva una Tuczke che tutto il movimento tedesco aveva una maturità fortissima, erano perché un po' come gli italiani, ma insomma avevano già cominciato prima, avevano già... E soprattutto, diciamo, in Germania le vecchie ideologie, novecentesco, cioè le eresie marxiste, hanno meno forza, mentre in Italia e in Francia sono fondamentali. Cioè, in Francia il gruppo, diciamo, egemone più grosso era il Sartorius, era uno dei gruppi di Sartorius, la ricomunista rivoluzionaria. In Italia i socialisti che non portavano per in carcere, in Italia erano molto di più di tipo maurista, fontanellista o operaista, perché c'era perché la diciamo, cultura della sinistra rivoluzionaria da prima nel 68 in Italia era più fortemente era più come operaista, però con una sfumatura e con una, come dire, fedeltà alle formule organizzative classiche, per esempio quella del partito classico più, diciamo, rivoluzionario di tipo leninista, mentre i tedeschi non erano così già nel 67-68 erano molto avanti. Però certo c'è un attentato, che viene scolpito da una pallottola alla spina dorsale, diventa paralizzato, perde anche una serie di funzioni proprio cognitive, quindi è fuori uso, già nel settembre del 68. E quindi per questa cosa dà una forza particolare alle posizioni della RAF, della Rote Armee Fraktion, quella che la stampa portoghese ha sempre chiamato con disprezzo come la banda Baader-Meinhof, in realtà aveva un nome, Rote Armee, che significa semplicemente frazione armata rossa. Frazione è un termine classico del movimento operaio marxista, vuol dire quando c'è un piccolo gruppo che non ha la forza di una corrente, di una componente, sì, quando il piccolo si stacca, e poi c'è la roba che tutti insomma sapete, lo stesso 64, insomma poco, c'è la misteriosa morte in carcere sia di Andreas Baader che di Ulrike Meinhof, perché la Meinhof si è sparata tre giorni, la Meinhof prima, ma sì, è vero, prima la Meinhof e dopo Baader. Comunque insomma praticamente insomma i militanti che rimangono fuori accusano lo Stato tedesco di aver insomma di aver ucciso, perché lei fa uno sciopero della fame, comunque li aveva tenuti in condizioni. Devo dire che la Germania era molto radicale sia sul piano dei movimenti di opposizione che anche sul piano dello Stato. Cioè, mentre devo dire, né a Curcio, né a Franceschini, neanche a Moretti, nessuno dei militanti delle Brigate Rosse detenuti è stato mai sottoposto alle cose a cui hanno sottoposto la Meinhof, cioè a vere e proprie torture. Cioè, tipo deprivazione sensoriale, luce accesa 24 ore su 24, insomma robe da mettersi le mani nei insomma, capelli per fiaccare la loro resistenza, eccetera, eccetera, che era veramente molto dura, molto, quindi lei entra in shock, della fame, dopo questa cosa probabilmente si suicida in carcere. Dopodiché, Andreas Baader, Gudrun Nelsi, nel terzo detenuto che non mi ricordo chi era, vengono trovati uccisi. vengono fatti inquinisti e la versione ufficiale è che sono suicidati pure loro. I militanti esterni dopo 4 giorni credo ammazzano il presidente della Confindustria tedesca come rappresaglia e questo scatena la repressione più disperata che si sia mai stata. Comunque per tornare il movimento c'è voluto quando la non vuole dire di no, io ero pure un tempo forse. Ho cominciato ad avere dei dubbi quando le Brigate Rosse hanno ammazzato per sbaglio due fascisti nella sede della messa di Manti di Padova, che furono i primi che ci hanno ammazzato, se no la gran parte del movimento rivoluzionario, anche se non aveva fatto la scelta della lotta armata, eravamo sommato contenti che ci fosse qualcuno che la faceva, certo, di fronte poi all'assassinio politico eccetera, è chiaro che ti fermi e cominci a riflettere. Il punto di vista l'osservazione italiana, stare in Italia confuse un po' le idee, perché noi a lungo illudemmo che l'apparizione di una componente armata all'interno dei movimenti di opposizione fosse, non dico un elemento trascurabile, ma un elemento politicamente gestibile dal resto del movimento. E il 77 italiano è l'esempio di questo. L'Italia è il paese in cui quel ciclo di lotte è durato più a lungo di tutta l'Europa e di tutto il mondo, forse con la sua esperienza del Giappone, perché anche il Giappone durò molto, molto di più che in altri paesi d'Europa, insomma del mondo. E quindi quando io nel 77 ebbi un ruolo minore di quello che abbia nel 68, perché stavo già facendo politica dentro un gruppo e quindi ero un po' fuori dalla cosa. Comunque per quel po' di 67 che feci, quello che insomma girava, come dire, l'idea era quella di l'idea di tutte le componenti del 77, sia di quelli autonomi che di quelli non autonomi, sia lotta armata che lotta non armata, era quello di dare una sferzata alla radicalizzazione, in certi casi addirittura, vi dirò, insomma, usando tatticamente la presenza dei gruppi armati come uno degli elementi di questa radicalizzazione, che tanto poi gestiremo noi politicamente, e creare uno scontro con il resto della società e anche con lo Stato, che costringesse lo Stato a smascherarsi e quindi poi a delegittimarsi di fronte a tutta la società italiana. Questo calcolo si rivelò sbagliatissimo. Si rivelò sbagliato perché quello che avevamo e avevano più di me, non lo dico per togliermi responsabilità, ma perché ne ebbi obiettivamente di meno nel 77 che nel 68. Comunque quello che non comprendemmo bene fino in fondo era che invece la presenza delle azioni armate aveva già dato allo Stato il pretesto per fare quello che voleva. In quell'anno lì, nel 77, quando morì Giordana Masi, che era una militante ammazzata, sparata dalla polizia a Roma durante una manifestazione, quando morì Lo Russo a Bologna, quando il 77 era già partito, non c'era nessuna speranza di gestire politicamente al di fuori di uno scontro armato tutta questa cosa. La battaglia era praticamente già in qualche modo socialmente perduta. Bisogna dire che lì ci fu il fatto politico gravissimo che i partiti di sinistra, il PSI stava già dentro il governo, il PC era dal 1876 stava costruendo un accordo con la DC per fare dei governi in cui se non ci fossero proprio, in cui se non c'erano proprio ministri, come dire, comunisti, ma come dire, governi democristiani appoggiati dal Partito Comunista. Questa scelta del Partito Comunista fu sciagurata intanto perché toglieva all'Italia ogni tipo di opposizione politica, non c'era più opposizione in Parlamento, cioè tutti i partiti dell'arco costituzionale erano d'accordo nel combattere il terrorismo, ma di fatto per una fase l'unica forza politica tradizionale che rimaneva di opposizione, ma non era, come dire, aveva una presenza visibile in Parlamento, era il Partito Radicale. E paradossalmente, per certi versi, alcuni settori del Partito Socialista, i quali, pur essendo un po' con una bella parte del, diciamo, da culo, insomma, perché stavano al governo con la, diciamo, DC, però si permettevano di, per non farsi schiacciare da questo abbraccio fra, diciamo, DC da un lato e PC, diciamo, dall'altro, il PSI di Craxi cercava di giocare un ruolo autonomo e tale cercò, per esempio, di giocarlo durante l'anno dopo, il 77, come sapete, fu il 78 e fu l'anno dell'assassinio di Moro, quando ci fu prima il rapimento e poi l'assassinio di Moro, il PSI strumentalmente, in modo come dire, subesco, insomma, però si accreditò come il partito della, diciamo, trattativa. Oggi è acclarato e assodato che diciamo, Aldo Moro è stato ammazzato dal lavoro combinato di Brigate Rosse, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, in particolare del Partito Comunista, che era quello più duro e più rigido contro ogni trattativa, contro ogni, anche mascherata, anche insomma, trattativa di fatto, eccetera, eccetera. L'assassino di Moro mise in luce quello che avrebbe già dovuto essere chiaro, diciamo, dall'anno prima, cioè nel 78, cioè l'incapacità, l'assoluta incapacità politica del movimento di opposizione di, diciamo, assicurare una gestione politica anche non direttamente parlamentare, di influire in maniera significativa almeno su qualche diciamo, equilibrio, come dire, politico, insomma, formale, e soprattutto quello di continuare a ritagliarsi uno spazio diciamo, per il proprio, come dire, sviluppo. Quando nel 79 l'ala più radicale del, come dire, movimento non armato o semi armato, cioè la componente dell'autonomia operaia, gli ex di potere operaio e ex dei vari gruppi dell'autonomia, quando questo vennero praticamente decapitati con una operazione di polizia che avvenne su tutta quanta l'Italia il giorno 7 aprile del 1979, in cui entrarono dentro un sacco di altre persone che anche al di fuori della militante autonomia, per esempio io. Non era 5 aprile. 7. 7. Io venni toccato tangenzialmente, ma venni insomma toccato anch'io, che non c'entravo nulla con l'autonomia, perché bisognava, quindi vennero arrestati centinaia e centinaia di dirigenti politici. Bene, quello fu l'atto in cui si capì, sì, ormai era chiaro, quello fu, diciamo, l'inizio, quello fu la fine ufficiale del, diciamo, come dire, politica del movimento, diciamo, di opposizione in Italia, cominciato alla metà degli anni 60. La fine sociale si ebbe l'anno dopo, nel 1980, quando la Fiat, che come sempre nei punti di svolta, oggi è un altro punto di svolta, è questo sciagurato accordo che stanno facendo per Pomigliano d'Arco, è analogo, nel 1980 la Fiat si poté finalmente permettere di licenziare in blocco, con un licenziamento, come dire, politico, tutte le centinaia di avanguardie di organizzatori extra sindacali che c'erano a Mirafiori. Vennero licenziati più di 300, più di tanto per altri, no, soltanto non per, per nulla, non per, proprio per, con un gesto di, diciamo, di impegno che era già un gesto politico. Non, era quello che ovviamente qualsiasi capitalista, qualsiasi padrone avrebbe, avrebbe volentieri voluto fare negli anni precedenti, ma non era stato mai in grado di fare. Dopo, dopo la sessione di Moro, dopo la sconfitta del movimento, dopo l'esaurimento del movimento del 77, la sconfitta di Moro, la sessione di Moro e la decapitazione totale del, diciamo, del movimento, della componente politica dell'autonomia operaia organizzata, la Fiat si sente, in, come dire, si sente legittimata a fare anche questa cosa, e questo, diciamo, il licenziamento dell'avanguardia Fiat nel marzo del, dell'80 segna definitivamente la fine, diciamo, del lunghissimo 68 italiano, e vabbè, sì, sono stato un po' in là, sì, però torno a un punto che ho detto prima, che la controcultura avesse, diciamo, ragione nel, nel non accettare la, la distinzione marxista fra struttura e sovrastruttura, è diventato, come dire, ha acquistato un significato a posteriori molto più forte e molto con maggiore proprio dalle trasformazioni strutturali cominciate nella seconda metà degli anni 70 e sviluppate negli anni 80 e 90, che vanno sotto il nome di postmodernismo, di capitalismo della conoscenza, insomma la nuova fase del, della, della, dello sviluppo capitalistico, che vede, l'abbiamo detto tante volte, ma insomma ve lo ripeto adesso, insomma, che vede diciamo la produzione di immaginario come la posizione, come la produzione strategicamente dominante nella, nella, diciamo, anche a livello economico, quindi nel meccanismo di valorizzazione. Il, oggi che le merci strategicamente più importanti per il capitalismo contemporaneo sono le merci immateriali, sono le produzioni relazionali, linguistiche e affettive, ogni residua possibilità di tenere distinta la struttura dalla sovrastruttura è ormai definitivamente scomparsa. Non siamo, cioè, non siamo più ai tempi in cui Horkheimer e Adorno potevano denunciare la mercificazione della cultura in nome di qualche cosa che rimaneva comunque separato dal meccanismo economico. Ancora ai tempi di Horkheimer e Adorno, negli anni 30 e 40 e 50 del Novecento, la cultura non è una merce nello stesso, nello stesso modo in cui lo erano le automobili e i frigoriferi. Veniva, c'era il tentativo del capitalismo di tirarla dentro, ma come dire, semplicemente era più che altro un uso politico di categorie, diciamo di settori, di produzione linguistica, insomma, senza però che il capitalismo in quella fase avesse la forza di farli direttamente entrare dentro il meccanismo produttivo, dentro il meccanismo di produzione del plusvalore, insomma, del ciclo di valorizzazione. Oggi la cosa è diversa, però tu giustamente mi dici, ma questo è peggio che andare di notte, perché è ovvio, perché fino a che c'era qualche cosa che stava fuori, e allora uno poteva dire, beh, insomma, sia pure nel casino più nero, però io mi... ma tutto il movimento operaio degli anni 50, degli anni in cui mi sono formato io, sono tutti anni in cui questa cosa era chiara, cioè l'idea della, dell'operaio d'avanguardia che si leggeva il libro e con il suo lavoro culturale, con il suo lavoro, era non solo un lavoro individuale singolo di come dire, elevazione culturale, quindi contemporaneamente lui sapeva che facendo quello contribuiva a sviluppare e ad ampliare quella zona franca dal come dire, capitalismo che era, certo. Allora, ecco perché è importante fare il cyberpunk. Sì, ma beh, infatti sei stroncato. No, non sono stroncato, oggi ho detto, non c'è, però lei ha fatto una come dire, domanda a cui io ho dato questa lunghissima diciamo, risposta. Era una risposta a una domanda sua. Era una polemica. Certo, lo so che c'è polemica. Ma io dalle parti, io penso che ci possiate arrivare per conto vostro che il cyberpunk è l'ultima, una delle ultime cose autonome e una delle prime dentro alla nuova cosa, insomma. Allora la mia vera risposta al fondo è vediamo come dirla. Allora, paradossalmente, io sono contento che la cultura non sia più una dimensione ontologicamente svincolata dal capitalismo, perché quello svincolo, quello svincolare, quella autonomia, quella pretesa autonomia, in realtà, era un trucco, cioè era un alibi per non impegnarsi ad aggredire il cuore del, come dire, problema. Finché c'è qualcosa che il capitalismo non ha, è come la questione del terzo mondismo. Negli anni in cui ero piccolo io, negli anni 50-60, negli anni 60, fine 50, fine, diciamo 60, hanno una improvvisa audience, un'improvvisa, suscitano una grande attenzione all'interno del movimento operaio rivoluzionario occidentale, una serie di scritti di militanti antiimperialisti del terzo mondo, il più importante dei quali è Frantz Fanon, militante della rivoluzione algerina, cioè del movimento rivoluzionario algerina, che scrive un libro chiamato I dannati della terra, in cui si sostiene che in qualche maniera lo scontro tra le periferie del mondo e quindi i movimenti di liberazione nazionale e i centri del potere capitalistico e imperialistico, questa dimensione dello scontro è più importante di quella interna al mondo capitalistico tra sfruttati e sfruttatori, cioè tra classe operaia e una parte dei militanti politici occidentali sottoscrivono a questa aderiscono a queste tesi che prendono il nome di terzo mondismo, poi dopo guevarismo, quando arriverà Che Guevara, con la motivazione che, è vero, la classe operaria dell'Occidente è ormai integrata dentro ai meccanismi capitalistici, si chiamava neocapitalismo, quando ero piccolo io, questa dimensione del capitalismo non ancora post-fordista, ma già capace di giocare con i meccanismi della cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Allora dicevamo, no, la classe operaia dei paesi occidentali è integrata, non ci sono più speranze. Quello che ci libererà non sarà più prevalentemente la lotta dei rivoluzionari dentro l'Occidente capitalistico può essere solo di appoggio ai movimenti di liberazione del terzo mondo, ma sono quelli, saranno quelli la vera. Allora, anche questo era una fuberia, questo tipo di posizione. Perché? Perché era un alibi per non affrontare il centro. L'operaismo italiano si è sempre opposto al terzo mondismo. Diceva no, dice è una palla questa, non è vero. La contraddizione fondamentale rimane tra borghesia e proletariato, tra classe operaria e classe capitalistica dentro il mondo occidentale. Questa è, e deve collegarsi, deve integrarsi ovviamente con le lotte dei popoli del terzo mondo che diciamo si liberano. Ma attenzione, perché anche i popoli del terzo mondo che si liberano in una prima fase lottano tutti insieme, borghesia, algerina, e si è visto poi come va a finire in Algeria, in Vietnam, eccetera, eccetera, tutte quelle lotte lì, come in Africa. Non le ha fatte il proletariato africano, il proletariato vietnamita, il proletariato algerino, o meglio, le hanno fatte quei proletariati, ma chi le ha dirette erano frazioni della borghesia algerina, vietnamita, africana, eccetera, eccetera. Ed è stata quella poi che ha preso il potere dopo che è stata fatta la rivoluzione in Algeria, per esempio, è stato chiarissimo. Analogamente, ti dico, meglio riconosciamo che la cultura sta dentro al meccanismo di valorizzazione, perché in questo modo saremo costretti tutti ad affrontare il toro, come dire, per le corna. E io non sono, come dire, scoraggiato, per una ragione che forse vi ho già detto, che forse non vi convince fino in fondo, ma non ne ho altra da dirvi, obiettivamente. Se non sono scoraggiato è perché so che l'integrazione di ogni dimensione umana, ivi compresa quella linguistica, affettiva e relazionale, nel meccanismo di valorizzazione, quindi nel cuore economico del sistema capitalistico, è un imperativo per i capitalisti. Per il sistema, non per i singoli capitalisti, per il sistema capitalistico nel contesto, ma si basa su un equivoco e si basa su una limitazione e su un impoverimento di tutte le attività linguistiche, affettive, relazionali, devono essere impoverite per poter entrare dentro la valorizzazione, non possono essere prese in quanto tali, non puoi prendere tutto il linguaggio. Certo, puoi prendere la cultura, puoi prendere dei pezzi, delle produzioni culturali, ma per fare questo che cosa devi fare? Devi, depauperarle, liofilizzarle, devi togliergli l'unica vera ricchezza che hanno, che è l'ambiguità, la polisemia, l'apertura al mondo e la possibilità di dire cose diverse, di contraddirsi, di fare vivere una dimensione. Se tu gli lasci questa cosa, tutte queste cose sono irrecuperabili in quanto tali. Puoi anche prendere Carmelo Bene e farne un pezzo di stampare un CD con le sue cose e lo vai, non c'è dubbio, ovvio che puoi farlo, e puoi farne una merce. Questo potevi farlo pure anche prima, però, anche quando il libro, la forma lì, il libro è stata la prima merce capitalistica, in assoluto, la prima merce, il libro, qualsiasi libro. Quando Gutenberg inventa la stampa, prima delle fabbriche tessili, prima del tessile, è l'editoria che diventa il primo. Però il contenuto di questi libri, il contenuto linguistico, il contenuto, la capacità di essere letti e di dare, esulava da quella forma. Dentro a queste, merci, libro, dentro a questi oggetti che sono merci, però dentro ci stava e ci sta un come contenuto che eccede la merce in quanto tale. Detto in altri termini, nella conferenza di Brera l'ho detto così, dell'aula plenaria l'ho detto così. Ho detto, non si può ridurre il linguaggio ad algoritmo. una delle condizioni per le quali è possibile fare del linguaggio una merce è che sia un algoritmo. È soltanto una componente algoritmica, cioè la componente meccanizzabile, prevedibile, ripetibile del, diciamo, linguaggio, che lo rende mercificabile. Detto questo, non lo so come fare, non lo so, non ho una ricetta, sono il primo io che non lo so. Provo a fare varie cose, mi pare che ne so, che sono San Precario, Serpi Canaro, Anna Damolo e Foscolo di Celaz siano dei tentativi che vanno in quel senso lì, che cercano di giocare l'ambiguità e la ricchezza del meccanismo linguistico, del dispositivo linguistico contro il processo di mercificazione, ma non voglio mica dire che siano né che siano gli unici né che vadano benissimo, che siano le cose, cioè forse bisogna trovarne di nuove, però diciamo mi pare che da un certo punto di vista siamo non siamo persi, non abbiamo perso perché questa operazione del capitalismo, del sistema, si basa su una sottovalutazione e su un impoverimento della dimensione linguistica a cui, secondo me, gli esseri umani non hanno tanta voglia di rinunciare. Non che tutti leggano Joyce o che tutti, figuriamoci, o che tutti, e uno dice, vabbè, se uno guarda... Ma pensate anche alla... diciamo, non occorre leggere né con l'Ulisse né Gadda e neanche forse Wallace per essere sostenitori dell'ambiguità del linguaggio, basta solo forse guardare Lost. Ma anche dentro un format così sputtanato come, no? Apparentemente come quello della serie televisiva, voi vedete che si moltiplicano le esperienze di ricchezza linguistica di queste cose. Guardi tutti, ricordate la bella partita, perché sennò non sei contento. Vuoi fare la rivoluzione con Lost. Non voglio fare la rivoluzione con Lost, come non voglio farla con Anna Damolo. Non sono cose che servono per fare la rivoluzione, insomma. Però è lì che dobbiamo basarci, cioè lì sta una, come dire, contraddizione, e per quanto loro si sforzino, come per quanto si sforzi, Vittorio Sgarbi non arriverà mai a capire un cazzo di arte contemporanea, di qualcosa di sensato su quello, così per quanto si sforzino, loro non potranno mai darci la ricchezza delle cose che noi possiamo trovare, che noi possiamo ricavare dagli spunti, dalle occasioni di relazione linguistica che il mondo ci offre. Allora, siccome il mondo ecceterà sempre il linguaggio, il linguaggio ecceterà sempre il mondo, e invece il loro disegno si basa su una impossibile, ripeto, coincidenza tra il linguaggio e il mondo. Quindi ogni volta che loro fanno una operazione del genere, sono costretti di volta in volta a tagliare un pezzo di linguaggio o a tagliare un pezzo di mondo. E la gente, prima o poi, se ne accorge. Si tratta di trovare il modo di lavorare su questa, diciamo, eccedenza. Ecco perché vi rompo tanto le palle in tutti i corsi con il significato fluttuante, con il significato eccedente. Cerco di farvi vedere tutte le volte come si può superare una diciamo astratta e immiserente identificazione del linguaggio con la realtà. È poco, me ne rendo conto, e diciamo rimpiango di non avere cose più sostanziose da darvi. Per esempio, rimpiango di non avere un partito a cui proporvi di iscrivervi per fare, perché non ce l'ho, perché non c'è, perché forse penso che non ci debba neanche più essere, perché abbiamo già dato a sufficienza. Però insomma, voglio dire, questo è il, come dire, terreno sul quale ogni operazione di resistenza di fatto poi si basa, perché di fatto si basa. E quello che ho cercato è quello che ho cercato di fare nella mia vita, anche personale e privata, è stato con 40 anni, sì, più o meno, 45 anni di ritardo, rimediare alla scelta che ho fatto tanti anni fa quando ero giovane, cioè di scegliere l'ala politica e non quella contro, diciamo, culturale. Adesso, siccome il mio pendolo per gran parte della mia vita, questa è una cosa autobiografica mia, è andato per, era andato troppo da una parte, adesso cerco di farlo andare dall'altra, come ovvio. Però l'idea è quella che non ci debbano essere più delle contrapposizioni tra questi due punti di vista, che sono punti di vista che vanno, diciamo, integrati. Il capitalismo della conoscenza ci impone di integrarli. Non si può fare un'azione politica di opposizione anticapitalista senza affrontare i temi dell'immaginario e senza quindi lavorare sui temi che classicamente sono quelli della controcultura e non quelli dell'opposizione politica. Oggi non possono essere più così diverse, così distanziate l'opposizione politica e l'opposizione culturale, devono essere fatte insieme, insomma. Volete fare una pausa? Thank you.